Avvocati di Giovanni Capuano. Tavecchio, voti 310.12. Dalle vicende delle scorse settimane ho infatti tratto molti insegnamenti che certamente metterò a frutto in un'epoca in cui si dà più importanza alle parole che ai pensieri e più importanza all'apparire che all'essere, cercherò anche di coniugare meglio il mio modo di essere, un po' ruvido, senza glamour, come qualcuno lo ha definito giustamente. Sulla base di un equivoco, come dire, di lessico, è una famosa banana. Ma lasci perdere su quello che si ripete, su un problema, su un concetto giusto detto in modo sbagliato, si è alzato un atto di killeraggio mediatico che è sicuramente elettorale. Tito, se vuole avere degli incarichi dirigenziali importanti in Federcalcio, deve forse allora fare un passo indietro alla Lazio. Io sono all'opposto, al polo opposto, per cui evidentemente c'è un po' di nervosismo. Forse qualche mia dichiarazione non gli è andata a genio, non lo so, ma... Lei ha detto che aveva chiesto un posto in Consiglio federale. Probabilmente è questo, ma è la verità. Io, se poi la verità è fastidiosa, è un altro discorso. Perché sono due grandi importanti, se posso dire la mia, io vedrei Mihanovic. 800240024, abbiamo davvero visto e sentito di tutto ieri nel giorno che ha mandato Tavecchio al comando del calcio italiano e vedremo se per conto suo o per conto terzi. Intanto comincia a muoversi, ultima ora battuta da Sky proprio pochi minuti fa: Tavecchio 2 punti, ho parlato con Conte, non ho ancora una risposta definitiva. Quindi il nuovo presidente federale ha preso il telefono, ha chiamato l'ex allenatore della Juventus per chiedergli di allenare la nazionale. A noi risulta che Conte non abbia tutta questa voglia di imbarcarsi nell'avventura della nazionale e non è una questione di soldi, però staremo a vedere. Tavecchio 2 punti, ho parlato con Conte, non ho ancora una risposta definitiva. Abbiamo visto di tutto, dicevo, abbiamo visto le liti, abbiamo sentito anche qualche presidente scherzare, giocare, abbiamo visto Tavecchio piangere, ieri prudentemente ha letto un discorso scritto, poi è fuggito via dopo gli applausi, gli abbracci. Maurizio Crosetti, ciao. Sì, buongiorno, ma siamo sicuri che non abbia telefonato a Paolo Conte? Conoscendo il personaggio, secondo me è più probabile che abbia chiamato il popolare cantautore astigiano, che effettivamente, confermo, non è interessato ad allenare la nazionale. Sì, né Paolo Conte né ci risulta Antonio Conte, che finirà nel fine settimana le vacanze, ma dobbiamo soltanto star qui, Maurizio, controllare, vedere e capiremo, avremo fra qualche ora la risposta. Troppo facile dire se ha pianto Tavecchio nel giorno dell'elezione cosa dovrebbero fare gli altri. Beh, sono 3 settimane, non solo che non che piangiamo, perché le lacrime le riserviamo a cose più serie, ma indubbiamente ci indigniamo, ci chiediamo come sia possibile. Siamo ancora qui a parlarne, è incredibile. Cioè, questo tema in un paese normale si sarebbe esaurito in 3 ore, le 3 ore successive alla gaffe, e quando in quelle 3 ore qualcuno avrebbe convinto il candidato a ritirarsi o quando lui stesso si sarebbe ritirato. In questo, in qualunque altro paese normale, l'Italia non è un paese paese normale, ma anche questo l'abbiamo, ormai mi annoio ad ascoltarmi perché ripeto sempre le stesse cose, forse perché sono in sogno, parlo nel sonno e dico queste cose, però ragazzi è veramente incredibile. E poi soprattutto, ecco, prima tra le varie frasi che avete giustamente riportato c'è la farneticazione di Lotito sul killeraggio mediatico. Ecco, io posso dire a nome mio e a nome anche della mia categoria, ecco, me la tiro e voglio, in questo momento rappresento i giornalisti italiani, non si permette di usare un termine così. Noi facciamo informazione, non facciamo killeraggio. Killeraggio è una cosa gravissima, perché intanto esprime una malafede totale, perché si pensa che qualcuno sia al servizio, il killer è qualcuno che viene pagato da qualcun altro per uccidere. Vuol dire questo, che anche se non ne parlano i classici latini, che evidentemente Lotito conosce più della lingua italiana, killeraggio vuol dire quello, vuol dire che tu paghi qualcuno per uccidere o per eseguire una sentenza capitale. Ora tutta la stampa italiana, salvo rarissime eccezioni, ha detto quello che non si poteva non dire, e cioè che questa storia grottesca, inaccettabile, propone un personaggio che, di cui si possono, all'estero possono solo avere compassione di noi, possono chiedersi come sia stato possibile. Questo non è killeraggio, questa è informazione. Quindi davvero vorrei invitare il presidente della Lazio a usare non il vocabolario latino ma quello italiano per capire il significato delle parole. Sì, dopodiché è fine del mito che i giornali, la stampa, le televisioni possano esercitare un potere condizionante quando di mezzo ci sono i soldi, c'è la politica, perché quello che abbiamo vissuto in queste due settimane è politica, seppure sportiva. Fine di questa leggenda metropolitana, per cui avere contro tutta o quasi tutta la stampa italiana significa spostare degli equilibri. Beh sì, questa non è una grande considerazione, o forse sì, nel senso che poi alla fine sai che c'è? È che non mi piacerebbe far parte di una categoria che esercita un potere, che sposta un consenso, cioè quella roba lì lasciamolo fare i politici. Noi, ripeto, facciamo informazione, noi forniamo strumenti, o dovremmo fornire strumenti e servizi alle persone, e poi le persone si regolano da sé. E quindi è vero, non abbiamo tra virgolette contato nulla, ma perché in questo paese non conta nulla l'opinione pubblica, non conta nulla il pensiero di chi è preoccupato oggi che il proprio figlio vada a fare una scuola calcio sotto l'egida, o l'egida come diceva quella vecchia ministra, no? Sotto l'egida della Federcalcio guidata dal re Banana, no? Ecco, allora questo forse c'è da dire, ma non vorrei far parte di una categoria che sposta voti, che fa pressioni di potere. Cioè noi siamo giornalisti, non siamo mica Lotito, Preziosi, siamo mica Lega Calcio. Sì, facciamo cronaca. Va bene così. Abbiamo fatto la cronaca di questi 14-15 giorni, così come faremo la cronaca dei prossimi 12-13, quelli che mancano, o comunque poco meno di un mese all'inizio dell'avventura della nuova nazionale. Il virgolettato esatto di Tavecchio: mi sono alzato alle 7 questa mattina, mi sono messo subito a lavorare, ho sentito Conte e altri 3 o 4, no, non ho risposte definitive, altrimenti ve l'avrei detto. Conte, Mancini, Zaccheroni, Guidolin, Tardelli, 800 24 00 24, i telefoni sono aperti perché mi interessa sapere anche dalla gente che ci segue qual è il nome che potrebbe mettere d'accordo tutti. Mi piacerebbe anche capire chi sceglierà il prossimo CT, se è vero ad esempio che Lotito potrà esercitare una sorta di diritto di veto sul nome di Mancini, ma anche per questo, Maurizio, basta attendere e capiremo. 800 24 00 24, traffico. Non è stata una bella idea la tua. Posso andare a letto o hai ancora qualcosa in programma? Tutti convocati. Volevo sapere dal presidente Ferrero cosa ha imparato da questa mattinata. Ho imparato una cosa molto bella, tante chiacchiere. Mi chiama Giamburrasca, Giamburrasca e proverò che non è giusto, no. E no, mi chiamano Giamburrasca, Giamburrasca sol perché ce l'han tutti con me. Lotito è un gladiatore, Lotito è un grande uomo. Lei deve sapere una cosa. C'è una massima di Massimo che adesso gliela dico. Lotito, se c'è un funerale, vuole fare il morto. Se c'è un matrimonio farà lo sposo. Mi chiamano Giamburrasca, Giamburrasca è provvero che non è giusto, no. E no, mi chiamano Giamburrasca, Giamburrasca sol perché ce l'hanno tutti con me. Qui stiamo facendo, mi sembra di stare sotto da Peppino, capisce il senso? È la grande commedia, se la ricorda Fernandez e Dino Cervi? Camillo e Don Peppone, per cui mi auguro che non ci sia spaccatura, ma se ci sia, visto che il mandato durerà un anno e mezzo, cerchiamo di pensare al calcio italiano, all'immagine che abbiamo guadagnato negli anni nel mondo. Giamburrasca, Giamburrasca, eccomi qua. E no, questo non mi va. Uffa, Giamburrasca, Giamburrasca, sol perché ce l'han tutti con me. Vanno in campo 22 gladiatori, 22 ragazzi, e che vinca il migliore. E la gente, i bambini, i grandi, i nonni devono andare lì senza avere episodi che fanno rabbrividire il calcio italiano e sporcano il tifoso vero che va allo stadio per tifare per la propria squadra. Forza Samp. Mi chiama Giamburrasca, Giamburrasca è provvero. Massimo Ferrero, nuovo protagonista assoluto del calcio italiano. 800 24 00 24. Carissimo Maurizio Crosetti non ha torto quando dice dovremmo pensare all'immagine che sportiamo di noi nel resto del mondo. Ragazzi, ma Camillo e Don Peppone, ma ci rendiamo conto? Cioè, qui mancano proprio le basi, cioè, voglio dire, e va bene che in questi giorni estivi molti network stanno trasmettendo i classici dell'umorismo, ho visto un bellissimo Fantozzi va in pensione, Totò e Peppino, tra l'altro ogni tanto ricorre anche Pappagone, ve lo ricordate Pappagone? Che era quella macchietta che dice sempre ecco qua. Era Peppino De Filippo che l'aveva portato, canzonissimo quando eravamo bambini noi, ma voi siete giovani, non ve lo ricordate. Potremmo suggerirlo, però c'era, visto che le citazioni Pappagone, cinematografiche Pappagone, si sprecano. Pappagone è identico, no, voglio dire che sentite le ultime frasi, impallidiscono anche i classici dell'umorismo italiano. Cioè veramente, se non fosse che questo è il calcio in cui è morto un ragazzo prima di una partita che si è giocata solo perché un signore che si chiama Jenny Acarogna ha detto ai giocatori di giocarla, e in tribuna tutti autorità dello sport, della politica, muti, impotenti. Questo è successo in Italia qualche mese fa, non è successo chissà dove, ecco. Se non fosse appunto che c'è ben poco da ridere, ci sarebbe da sganasciarsi, perché non bastavano i personaggi da operetta che già avevamo, no? Ne arrivano sempre di nuovi, è come il vecchio drive-in che imbarcava in ogni stagione televisiva nuovi comici, erano Troisi, ricordate il giovanissimo Carlo Verdone, il povero Faletti, e adesso in questa roba qui è il calcio italiano, gratis spesso, ma gratis non tanto, però c'è anche il calcio in chiaro, però volete mettere un abbonamento alla Pay TV, si vedono le partite, la Champions League e il Varietà che sembrava morto in Italia, il Varietà dal sarebbe stupendo che vendessero i diritti TV del prossimo Consiglio federale, della prossima Assemblea di Lega. Ieri ne abbiamo viste davvero di tutte. C'è chi scrive 349-238-6666, basta con il politicamente corretto, valutiamo le persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Poi c'è chi scrive con Tavecchio, io tifo contro l'Italia, viva Tavecchio. Abbiamo il Presidente del Consiglio che tratta con un condannato e vi stupite l'ignoranza di Tavecchio. Poi c'è anche chi dice non sono laziale ma Miro Lotito, volete forse dirmi che Albertini non rappresenta dei poteri forti? Questa è Maria Teresa. A proposito di Lotito, del quale ridiamo da 10 anni, c'è da dire che l'uomo però ha delle qualità, cioè tutte le volte che scende in campo, si schiera, alla fine vince. Sì, indubbiamente è un capopopolo non trascurabile, deve avere degli argomenti che a noi evidentemente da lontano sfuggono, a me risulta che non lo vogliono nemmeno i suoi tifosi, mi pare, no? Dopodiché in un certo momento della sua presidenza la sua coerenza contro certi ultra era anche apprezzabile, perché non sembri che uno, come dire, ce l'ha sempre per forza con una persona, però insomma al di là di questo sarà pronto anche in giro per lungo tempo con la scorta, dimostrando certamente grande carattere, perché Lotito è uno che non si muove di un millimetro anche quando prende le posizioni impopolari, però è per quello che parli chi la raggio mediatico, quindi già mi pento di avergli fatto un mezzo complimento. No, ritiro tutto, no, lo tito no, non può essere questa, a parte tutto, questa classe dirigente ha portato il calcio italiano nel suo peggior momento, allo sfascio, non possono essere gli stessi dirigenti a volerlo ricostruire. Al di là delle banane, non è solo una questione di forma, al di là che secondo me le parole sono sostanza, la forma qualvolta è come se è sostanza, perché le parole rivelano quello che pensiamo e dunque quello che siamo. Però al di là di questo, però non sono le banane, il problema sono i bananieri, i bananai. E poi bisognerà anche vedere come verrà applicato quel programma che c'è, esiste, 16 paginette controfirmate da Carlo Tavecchio. Ad esempio bisognerà capire se davvero farà le riforme, se davvero farà il favore che i club attendono, cioè quello di rendere meno dure le squalifiche per la violenza, per il razzismo, per la responsabilità oggettiva, se farà le seconde squadre come ieri gli ha chiesto l'Inter nel messaggio di complimenti, o le seconde proprietà come vuole Lotito, non si accettano squadre. Commesse. Per chiudere, Maurizio, chi fa il CT? Ma io credo che Conte voglia una panchina di un club e credo anche che lui non sia un selezionatore, credo che abbia bisogno, essendo lui un martello, ha bisogno di un incudine da picchiare tutti i giorni. Mancini sarebbe un ottimo CT, ma non credo che... insomma, è inviso al nuovo capo del calcio italiano che non si chiama Tavecchio, ma che sta a Roma. E alla fine credo che potrebbe essere una scelta come Zaccheroni, sarebbe una buona scelta quella di Guidolin, però più forse come coordinatore, perché ha deciso di, che lo, un po' come Sacchi, non, lo stress forse lo ha un po' consumato, è un uomo di calcio, però insomma non penso che sarà, cioè sarà un CT che esprime questo momento del calcio, non hanno credo la possibilità di ingaggiare chissà chi, perché Zaccheroni è un bravo diavolo, però insomma se chiedete ai tifosi della Juve forse lo rimpiangono di più i giapponesi, ecco. Dopodiché, per carità, è una persona per bene, è un buon allenatore, se sarà lui o se sarà Cabrini, se sarà Tardelli, se sarà Rivera, potrebbero andare in panchina direttamente, io credo la soluzione migliore sarebbe come una volta c'era nella Svezia, c'era il tattico e il motivatore, vi ricordate, no? Sì. E io manderei proprio Tavecchio Lotito, il tattico e il motivatore. Sì, e non è detto che alla fine la soluzione non possa essere quello, o che magari Lotito non aspiri. La sintesi di Lotito l'ha fatta in un certo senso Ferrero, colui che a un funerale vuole fare il morto e al matrimonio vuole fare lo sposo. Magari si può sorridere, però Lotito in questi 10 anni ci ha insegnato che è anche questo. Grazie Maurizio. A voi, ciao. Grazie, ciao. Mi sembra che con Tavecchio si vada verso la proposta a Conte, perché è abbastanza inammissibile che Tavecchio, che è diventato veramente una spalla di Lotito e non viceversa, possa andare a chiedere a Mancini, che è visto come un moscerino in un occhio da Lotito. Se Conte non dovesse accettare, ci sta, perché Conte vuole un lavoro molto più diretto, molto più intenso, quotidiano. Io credo che si passerebbe direttamente a Guidolin o Di Biagio. Il suo sogno è un commissario tecnico di basso profilo, perché si possa, come sono sempre stati, e come forse torneranno ad essere. L'ultimo CT di estrazione federale è stato nel 1998 Cesare Maldini. 800 24 00 24, io vi ricordo le parole di Tavecchio pochi minuti fa: questa mattina mi sono alzato alle 7, mi sono messo subito a lavorare, ho sentito Conte e altri 3 o 4, non ho risposte definitive, altrimenti ve l'avrei detto. Nicola da Bologna. Nicola. Ciao, prego. Sono una persona profondamente democratica e credo che nel Consiglio federale hanno votato e hanno eletto una persona democraticamente. Se l'Italia fosse un paese normale come non è, non ci sarebbe l'ordine giornalisti, che a tutti gli effetti è un ordine mafioso. Ma se l'Italia fosse un paese normale, non sarebbe successo quello successo in Germania con un Eccleston inglese che deve pagare 100 milioni per corruzione. Cioè non stiamo a guardare sempre i problemi nostri, che sono problemini con corruzione. In Olanda l'assassino di quell'arbitro da parte dei genitori. Cioè, sì, però Nicola, dovesse dargli una grossa calmata pensando di essere i depositari. Ma ognuno fa il suo lavoro, Nicola. Io penso che l'ordine dei giornalisti lo possiamo riformare, lo possiamo cancellare. Fate quello che volete, non è un problema, tanto poi alla fine lavora chi deve lavorare. Se l'Italia fosse un paese normale, ma questo l'hanno scritto in tanti, non solo in Italia, la candidatura di Carlo Tavecchio, positiva o negativa che fosse in partenza, perché siamo in democrazia, sarebbe stata bruciata in meno di un paio d'ore da quelle parole sui giocatori extracomunitari mangiabanane che altrove insomma gli sarebbero costate la candidatura, probabilmente in maniera spontanea, nemmeno senza attendere la spinta. Siamo in Italia, è successo il 25 luglio, oggi 12 agosto Tavecchio è presidente della federazione, anche questa è la democrazia, noi restiamo qui e controlliamo che quell'ambizioso programma di riforme venga in qualche modo messo in pratica. Attilio dalla provincia di Teramo. Attilio. Buongiorno, salve. Prego. Io ho sentito adesso l'intervento di Cosetti, ero in macchina. Sì. Un sarcasmo disgustoso, ecco, io non conosco da vecchio, non ho niente da a favore né contro, assolutamente. Cioè, cosa aspettiamo? Il governo degli ottimati, e chi li sceglie? Cioè, questo discorso vale per la federazione e anche per tutto il paese, no? Cioè, questo non è capace, diamo giù e via, eccetera, è ridicolo, porta l'immagine disgustosa all'estero, ma chi è che decide queste cose? Ma lei è piaciuta l'immagine di Tavecchio che ieri, finito di leggere il discorso rigorosamente scritto, ma ripeto, ha fatto benissimo, visto quello che è accaduto nelle ultime due settimane. Mi scusi Attilio, le è piaciuta la scena di Tavecchio che praticamente è scappato, scortato per evitare che tornasse ad aprire bocca? È quella, secondo lei, un'immagine all'altezza, una figura all'altezza di guidare il rinnovamento del calcio italiano? Se è incapace andrà a sedere, andrà via, questo, cioè, nessuno vuole dire tutta questa storia, il lavaggio forse è sbagliato come termine, però una campagna di stampa montante, sono d'accordo con l'ascoltatore precedente, cioè è esagerata, chi è che decide chi è capace o non è capace? Con questo criterio allora andiamo a fare delle discriminazioni assolute senza fondamento, capisce? Cioè, non può essere una cosa del genere. Ma si esprimono opinioni, Attilio, c'è l'opinione del 95% dei giornali italiani che, sottolineo, siccome siamo in democrazia, hanno comunque perso, perché hanno perso, e poi c'è anche l'opinione sua che è certamente condivisa da chi ieri ha votato Tavecchio. Grazie comunque, Maria Grazia da Verona. Sì, ciao, sono Maria Grazia da Verona. Prego. Allora, io volevo dire che sono d'accordo con i due ascoltatori che hanno chiamato ora e che ho ascoltato tutti pro Tavecchio. Sì, e che ho ascoltato per radio tutte le partite del Mondiale, volevo chiederti, ma come mai le partite che si giocano da noi alla domenica, cioè quando è successo, non è successo un incidente, ci sono state milioni di persone, non ci sono stati cori razzisti, i tifosi delle due squadre erano insieme, niente d'aspo, niente di tutto questo, come mai in Italia non si riesce a giocare una partita come se fosse una partita mondiale? Sai rispondermi? No, io non so rispondere, se sapessi rispondere probabilmente mi sarei candidato a fare il presidente della Federcalcio. Diciamo che mi aspetto che nelle prossime settimane cambino alcune delle regole che negli ultimi due anni hanno normato il comportamento all'interno degli stadi italiani. Detto questo, noi andiamo incontro a una stagione in cui vedremo molto spesso settori chiusi, stadi mezzi vuoti, limitazioni all'accesso e orari delle partite decise non dalla Lega Calcio, non dalla Federazione, ma dall'Osservatorio del Viminale, perché questa è l'eredità che ci lasciano purtroppo i fatti del 3 maggio, che sono stati l'inizio di questa estate del calcio italiano. Tutti convocati. Una notte a Napoli. La chiusura di Cabaia, resta viva, buon Napoli adesso, poi prova a cacciare Cavani, ancora fischi per lui, sentite. Questa è la giocata di poco fa e Cavani che quasi provocava, almeno a me è sembrato, il pubblico del San Paolo, che a quel punto ha aumentato, eccolo qua, i decibel dei fischi per l'ex ormai quasi odiato dal pubblico di Napoli. Quello chiedere se insomma un po' deluso dal mercato, magari si aspettava il centrocampista già per il preliminare. Credo che come allenatore devo lavorare con i giocatori che ho qua. Ovviamente quindi con Caillecon, con Jorginho, con questi giocatori, ma Lucas Leiva o Fellaini? No, con i giocatori che ho qua. Abbiamo almeno, non lo so, 20-30 nomi di giocatore, ma questi sono che abbiamo oggi. Voto al mercato del Napoli per chiudere? Ancora dobbiamo preparare la partita della prossima settimana. Messaggio si sente di dare ai tifosi del Napoli che aspettano questa Champions? Devono aiutare la squadra, questo credo che oggi era l'atmosfera un po' strana e per aiutare veramente la squadra abbiamo bisogno da loro. Ieri abbiamo visto anche i fischi del San Paolo compatto contro il proprio passato, contro Edison Cavani, applausi invece per Lavezzi. Abbiamo visto il Napoli perdere contro il Paris Saint-Germain in quello che era il test prima del preliminare di Champions League. Boris Sollazzo, ciao! Buongiorno a tutti. Ciao Boris, cuore ingrato come i 50.000 napoletani che ieri hanno fischiato Cavani, cosa che io confesso fatico a capire, o per te la riconoscenza esiste ancora nel calcio? Ma guarda, la riconoscenza per i 104 gol sarebbe stupido non darla. C'è da comprendere la reazione del San Paolo, perché c'è modo e modo di andarsene, e lui se n'è andato forse nel modo peggiore, cioè facendo parlare i familiari, facendo parlare chiunque, dicendo che se ne sarebbe andato via solo per il Real Madrid e poi accettando il Paris Saint-Germain. Ovviamente poi chi rinuncerebbe a 10 milioni di euro, e soprattutto sicuramente Aurelio De Laurentiis non avrebbe rinunciato ai 70 milioni di euro che gli dava il Paris Saint-Germain. Sì, però perché poi è andato via anche per una strategia del Napoli, Boris, cioè voi napoletani ve la prendete con Cavani, ma mi pare che alla fine l'affare l'abbiano fatto in due. Mi pare che anche l'epilogo della vicenda di Lavezzi un anno prima avesse chiarito qual era la strategia di De Laurentiis. Però il tifoso non è né un dirigente né un giornalista, quindi c'era anche un atteggiamento in campo che forse ha un po' deluso i tifosi napoletani, magari può essere anche ipocrita, però l'avessi dopo ogni scontro di gioco, soprattutto nel primo tempo in cui sono stati molto duri i centrocampisti parigini, si preoccupava di ciò che succedeva ai suoi ex compagni. Cavani invece ha provocato, ha avuto degli atteggiamenti poi tipici suoi, che aveva anche quando vestiva la maglia del Napoli, quindi secondo me senza nessuna malafede. E poi forse si è sentito offeso da quei pochi fischi iniziali che poi sono diventati boati quando lui ha reagito. Secondo me è frutto più di un malinteso. Probabilmente nel cuore dei tifosi sarebbe stato meglio l'indifferenza per Cavani e l'amore per Lavezzi, che ha acceso sempre di più la fantasia dei napoletani e che con Napoli ha mantenuto un filo diretto, che invece Cavani ha rifiutato. Insomma, è stato lui il primo forse a dimenticare i suoi tre anni a Napoli, anche se devo dire che poi la sua reazione via Twitter è una reazione da gran signore e l'applaudo. Però bisogna sempre pensare che i tifosi sono tifosi, che lo stadio è un luogo molto particolare in cui si decide cosa fare in pochi secondi e si parla con la passione. Con sì, la è una tribuna che ragiona con la pancia. Io continuo a non capire perché Napoli debba fischiare le persone che hanno contribuito a renderla grande. Valeva anche per Mazzarri, lo abbiamo visto l'anno scorso. Preoccupato Boris di come arriva il tuo Napoli a quella che è già la partita della stagione settimana prossima? Ma guarda, io ho un atteggiamento ambivalente, perché da una parte il Napoli di questo precampionato come gioco è un ottimo Napoli, è un Napoli migliore dello scorso anno, è un Napoli che ha migliorato di gran lunga il gioco difensivo, attacca gli spazi, attacca la palla, non ha venduto nessuno, che non è poco insomma in un calcio italiano come questo, e ha comprato sicuramente un giocatore molto buono di prospettiva come Koulibaly, che probabilmente partirà titolare contro l'Athletic Bilbao. Certo è che se mi chiedi che voto dare, come ho sentito prima nel contributo, al calciomercato del Napoli, direi un 6 meno meno, perché è stato caratterizzato dall'immobilismo, dal fatto che sono arrivati due giocatori comunque non top player e che il salto di qualità per superare Roma e Juventus non c'è stato. Qui secondo me quello che manca è un Aurelio De Laurentiis che dovrebbe parlare chiaro su molte cose, cioè dovrebbe dirci perché per anni ha detto che bisognava cambiare il calcio e poi ha votato da vecchio, ci dovrebbe dire perché dopo tanti anni in cui ha anche strapagato dei giocatori come Britos con 10 milioni di euro, adesso vorrebbe avere grandi giocatori in prestito con diritto di riscatto. Evidentemente sono il cambiate le strategie. Sì, il terrore di molti napoletani è che noi l'abbiamo già visto succedere un calciomercato di questo tipo, ed era l'ultimo anno di Mazzarri. Non vorrei che De Laurentiis sappia che questo sia l'ultimo anno di Benitez e quindi non voglia investire su giocatori che poi non concorderebbero col progetto tecnico del prossimo allenatore. Sì, ieri è apparso tutt'altro che felice Benitez, non ha dato il voto al mercato del Napoli, ma era evidentemente insoddisfatto, così come mi sembra ci sia un sentimento diffuso di scetticismo intorno al Napoli, cosa che in parte mi pare anche autolesionistica. Siamo a 2 settimane e mezzo dall'inizio della stagione, a pochi giorni dal preliminare di Champions che fa da spartiacque, probabilmente in questo momento, l'ha sottolineato anche Benitez, servirebbe qualcosa di più anche dall'ambiente, dai tifosi e da chi comunque può dare una mano a questa squadra a superare già il primo ostacolo. Grazie Boris. Grazie a te. Io dico ai tifosi napoletani: guardate come sta giocando il Napoli, quella è la cosa più importante. La Roma l'anno scorso sembrava una squadra alla deriva dopo il calciomercato e ha fatto un grande campionato. A me sembra che questo Napoli giochi meglio di qualunque Napoli visto negli ultimi 10 anni. Grazie, ciao. Ciao. Spero che il sistema calcio italiano non sia di profondo ostacolo a questo modo di fare sport che vuole coniugare l'idea di sport americano con la grandissima passione, in questo caso italiana e romana, che c'è in questo ambiente. E spero fortemente che il nostro sistema calcio si renda conto che la Roma è una grande opportunità e che possa essere da esempio per un rinnovamento, per qualcosa di positivo che va a migliorare il calcio italiano. E queste sono le parole di Morgan De Santis, che non è solo il portiere della Roma di cui stava parlando, Roma che da ieri è completamente americana, completamente nelle mani di Pallotta, perché Unicredit ha venduto anche l'ultima parte delle sue quote. De Santis che è anche consigliere federale. Poi c'è chi scrive 349-238-6666, chiede perché insistiamo sulla frase delle banane, che era fatta per dire che una persona aveva avuto delle chance di arrivare in prima squadra, perché quella è una frase, lo ripeto, che altrove, non in Italia, avrebbe segnato la fine di una candidatura. C'è chi come Piero gode quando le campagne dei giornali falliscono, c'è chi dice in 8 anni il calcio è stato rovinato, chi ricorda che lo scorso 3 maggio governavano Abete e Albertini, e cioè esattamente chi viene oggi appoggiato dalla Juventus, questo è Ulisse. E poi c'è l'annotazione che non sono i giornali a fare il presidente della Federcalcio, ma è proprio da qui che siamo partiti, non sono i giornali a fare il presidente della Federcalcio. 800 24 00 24, stiamo parlando anche del nuovo CT, e lo ripeto, questa mattina Tavecchio ha contattato 3 o 4 allenatori e ha detto: non ho ancora risposte definitive. Ha telefonato, ha fatto sapere anche ad Antonio Conte. Enzo da Bologna. Enzo. Buongiorno. Prego. Grazie per avermi convocato. Dica. Ma io credo che sia, diciamo, questo sull'elezione del presidente federale, che un rinnovamento da uno che si chiama Tavecchio non ce lo possiamo aspettare. Credo anche che noi ci scandalizziamo della frase, perché bisogna dirlo apertamente, è una frase razzista e basta, e avrebbe significato la fine in qualunque, come dice lei, in qualunque altro paese del mondo, della candidatura. Terzo, ma lo titolo porterà a vedere le partite, lo vecchio, le partite della nazionale, che lui è presidente federale, ci dovrebbe andare, ce lo porterà? Ma penso che ci vada per conto suo, non ha bisogno che lo porta lo Tito. Abbiamo detto abbastanza, evidentemente comunque Tavecchio ha delle idee, ha anche delle idee sue, comunque il bilancio dei tanti anni che ha passato tra i dilettanti è un bilancio che ha anche degli aspetti positivi. e quindi noi stiamo qui e aspettiamo di vedere che cosa saranno le riforme. Mi rifaccio le parole di Malagò, presidente del CONI, certamente non favorevole a Tavecchio. Malagò ha detto: ha un programma ambizioso, un programma coraggioso, ha poi aggiunto: temo non glielo faranno fare. Noi invece, visto che da ieri ore 17.07 è presidente della federazione, speriamo che quel programma ambizioso e coraggioso venga almeno in gran parte realizzato. Enrico da Roma. Enrico. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Per me. Abbastanza ovvia. Niente, io dico che la comunicazione ha le sue colpe in Italia. La stampa si è svegliata solamente ora su certi personaggi come Claudio Lotito. Ha delle qualità, ho sentito pochi minuti fa da voi, ma io ritengo che qualità non ne abbia fatte vedere ai tifosi della Lazio, cioè a coloro che lo conoscono meglio di tutti quanti. Sì, ha rinnovato al 7 agosto 4.000 abbonamenti su 23.000 dell'anno scorso. Se la Curva Nord ha rinnovato 285 abbonamenti su 5.400, ci sarà una ragione o no? Sì, ci sono tante ragioni. Ci sono tante ragioni, Enrico. Però scusa, poi ti faccio concludere. Fra le tante ragioni, secondo me, c'è anche una medaglia per Lotito, che è il modo con cui lui ha approcciato il rapporto con i gruppi ultra. In questo Lotito è certamente un esempio, secondo me, per tanti suoi colleghi che fanno fatica a rescindere quel legame. Prego, Enrico. Più nessuno allo stadio, ci sarà un motivo o no? Sì, c'è anche questo, che c'è evidentemente insoddisfazione, ma ripeto, c'è anche della strumentalizzazione. Io su questo sono abbastanza sicuro. 5.000 persone che non vanno più allo stadio. Lei lo sa che nel 2004 la Lazio faceva 42.000 abbonamenti? Io so che quest'anno Lotito mi sembra abbia fatto una buona campagna acquisti. Io non so se lei è tifoso della Lazio, mi dica lei se è soddisfatto o insoddisfatto di come si è mosso. Non vado più allo stadio da 3 anni. Come tanti tifosi della Lazio, se hanno rinnovato 5.000 abbonamenti, di cui 1.400 sono cosa non le piace della Lazio della prossima stagione? Euro. Enrico, cosa non le piace della Lazio della prossima stagione? Il trattamento che questo personaggio ha nei confronti della stampa, ad esempio, vi adontate perché parla di ghillenaggio mediatico, ma solamente quando parla di nazionale e quando parla di Lazio, tutti zitti? Se Lotito non è il presidente amato dei tifosi della Lazio, ci sarà un motivo. L'unica cosa positiva, e chiudo, è che finalmente a livello nazionale conoscerete Claudio Lotito. Grazie Enrico, traffico. No, una curiosità, perché lei freelance, però di quale testata è lei? Scusi. Euronews, Parisiti. Ah, Parisiti, sì. Penso, pure lei in cerca di identità, perché non c'ha l'identità. Convocati. 800 24 00 24, qui sono benvenute tutte le opinioni, anche quelle diverse dall'opinione del conduttore, anche quelle diverse dall'opinione degli ospiti, non c'è problema. 800 24 00 24. Riccardo da Bolzano è caduto. Claudio da Venezia. Salve. Buongiorno. Salve. Prego. Buongiorno, volevo chiedere una cosa. Io Tavecchio lo conosco bene, non lo conosco, quindi non saprei cosa dire. Però vedo che la Lega Pro, lui ha lavorato molto sulla Lega Pro, e la Lega Pro è compattamente, lo comparta con Tavecchio. Vuol dire che in passato ha lavorato anche bene, credo, insomma. Sì, c'è anche da valutare che un conto è guidare la Lega Nazionale Dilettanti, non la Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, e un conto poi è misurarsi anche a livello internazionale, dove ad esempio l'aspetto della comunicazione, lui ieri ha detto: sapete che sono una persona che con le parole ha qualche problema. Beh, l'aspetto della comunicazione ad esempio credo faccia in parte la differenza, o forse no. Riccardo Trevisani, ciao. Non so se fa la differenza. Non sai se fa. Ma io credo, non so ad esempio se Carlo Tavecchio parla inglese, credo abbia ragione Agnelli quando dice: altri portano in UEFA e in FIFA personaggi riconoscibili. Non credo che nessuno si alzerà in piedi ad esempio all'ingresso di Tavecchio dentro una sala per una riunione, però questo poi starà anche al calcio italiano, dotarlo di quella forza e di quella credibilità. Io credo che sia questo fondamentalmente il problema. Penso che chiunque possa andare bene, a prescindere dal lato anagrafico, che è inquietante, che conferma le difficoltà comunque che ha questo paese quando deve cambiare, il problema è vedere se verrà messo nelle condizioni, se sarà lui stesso nelle condizioni, nelle capacità di mettere un freno a quello che sta diventando un discreto sfascio all'interno del calcio italiano, che è un calcio che ha bisogno di tante cose, ha bisogno di novità, ha bisogno di cambiare, ha bisogno di aggiustarsi, ha bisogno di puntare sui giovani. Credo che da questo punto di vista si è persa una grande occasione per provare a fare un po' di piazza pulita, non a mettere un politico in una posizione politica, si poteva fare una cosa diversa. Detto questo, lui è in bocca al lupo a lui, perché comunque alla fine quello che ci interessa è che il calcio italiano possa migliorare, altrimenti ci ritroviamo un'altra volta tra 4 anni magari fuori la fase gironi mondiali, ci ritroviamo con un calcio vecchio dove i giocatori forti vengono a svernare anziché essere presi nel pieno della loro carriera. Quindi abbiamo tanto bisogno di aiuto e speriamo che in qualche modo possa arrivare, anche se è chiaro che il physique du rôle che uno si aspettava era un pochino diverso da quello di un uomo di 71 anni. Sì, il profilo era un po' diverso. Abbiamo bisogno di tante cose anche per cercare di colmare il gap sempre più ampio tra noi e gli altri, un gap che stiamo vedendo anche in quest'estate, di partite che saranno inutili, non conteranno nulla, saranno soltanto di preparazione, però poi finiscono con parole che sono la fotografia dello stato attuale del nostro calcio. La nostra squadra ha il suo livello e loro sono tanti giocatori di un livello altissimo. Era una partita per vedere se possiamo andare un po' meglio. Credo che ha visto qualcosa di interessante, alla fine è così. Questo è Benitez sul Paris Saint-Germain, che resta ovviamente di un altro pianeta per il Napoli e non solo, credo. Ho paura di sì. Ieri ho commentato la partita e ho visto un Napoli buono per una parte di partita. Poi Napoli ha cambiato mettendo dentro un po' di seconde linee. Dalla panchina del Paris Saint-Germain sono entrati Ibrahimovic, Pastore, Verratti, e la situazione si è notevolmente complicata per il Napoli. Ho paura che il nostro calcio sia un passo indietro, anche due, forse tre, rispetto a queste squadre qui. Sono 4-5 squadre che per il nostro calcio sono ingiocabili dal mio punto di vista. Sì, abbiamo visto l'altro giorno la Community Shield in Inghilterra, giocata comunque su ritmi elevatissimi, anche se siamo a metà agosto. Domani vedremo la Supercoppa tedesca con il solito Bayern Monaco, Borussia Dortmund. Questa sera c'è Real Madrid-Siviglia, che mi interessa soprattutto perché cominciano gli esperimenti per mettere insieme. Io vi leggo la formazione di questa sera. Dovrebbero esserci Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Kroos e James Rodriguez. Direi un grado di difficoltà estremo per Ancelotti. Sì, perché poi l'anno scorso è riuscito con l'operazione Di Maria intermedio a risolvere un po' i problemi di questa squadra, anche nel mettere insieme un gruppo che avesse un senso e un equilibrio. Alla fine Real non ha vinto la Liga, ma ha vinto la Champions, che era il grande obiettivo, e ha vinto anche la Coppa del Re. Non so se sarà già pronto stasera, perché comunque il Siviglia ha cambiato molto meno e magari ci sta che metta in difficoltà il Real. Detto questo, il tasso tecnico del Real Madrid è una cosa che non credo si sia mai vista al mondo per quello che può mettere insieme Ancelotti. Però sono sempre dell'idea che un allenatore possa anche non essere entusiasta di una squadra così forte, perché può comunque creargli dei problemi tattici e mettergli addosso anche una notevolissima pressione. Sì, un anno fa è arrivato quasi a dicembre prima di riuscire a risolvere l'incastro di Bale nel meccanismo del Real Madrid. Oggi a quel meccanismo deve aggiungere, lo ripeto, Kroos e James Rodriguez. Real però che mi sembra sempre un passo avanti a tutti, almeno se proviamo a fare una griglia di partenza dando un'occhiata a quest'estate e pensando a quella che potrà essere la prossima stagione. Sì, è vero poi che abbiamo avuto l'esempio dell'Atletico Madrid l'anno scorso, quello del Borussia Dortmund 2 anni fa, e credo che alla fine ci possa essere l'esempio che non necessariamente la maggior quantità di talento e di soldi porta al risultato, perché alla fine arrivano in fondo squadre che non sono necessariamente il Barcellona, non sono necessariamente il Paris Saint-Germain, ma che comunque l'ha sfiorata quella qualificazione per la semifinale contro il Chelsea. Per cui la speranza che qualche squadra possa far bene c'è. Io penso per esempio che la Roma possa far bene in Champions League se riuscirà a arrivare in un girone normale e non sovraumano per il tipo di gioco che ha. Penso anche che la Juve di Allegri possa far bene, lo stesso Napoli, che ha già fatto bene l'anno scorso, se passerà ai playoff con l'Atletico Bilbao, possa far bene, ma è sempre un bene molto relativo. Per andare fino in fondo devi prendere o una serie di sorteggi fortunati o compiere un'impresa straordinaria. aria, in questo momento siamo indietro. Ti sei fatto un'idea del Barcellona? Che è un po' un'incognita a partire dall'allenatore Luis Enrique, che noi conosciamo molto bene, poi c'è Suarez. A proposito, siamo in attesa del verdetto del TAS di Losanna e non si accettano scommesse sul fatto che gli venga regalato uno sconto sulla maxi squalifica per il morso a Chiellini. Resta però un'incognita, ma anche sul mercato. Oggi i giornali catalani scrivono ancora la voce di Cuadrado, però la verità è che è una squadra a cui manca ancora qualche pezzo per essere completa. Sì, soprattutto la squadra che continua a investire bene, ad azzeccare sempre gli investimenti che riguardano la parte alta del campo, cioè dall'attacco al centrocampo, ma io continuo a pensare che stiano e che abbiano inanellato una serie di errori a livello difensivo inquietanti, con l'eccezione di Jordi Alba. Sono arrivati negli anni dei difensori centrali veramente modestissimi, penso a Cigrinski, pagato 24 milioni di euro e ridato via praticamente gratis rispetto a quanto era stato pagato. Penso allo stesso Vermaelen: se Vermaelen vale 19 milioni di euro, allora è giusto che quando ci sono le conferenze stampa tutti coloro che si occupano di mercato vadano a fare richieste di qualsiasi tipo. Cioè se Vermaelen vale 19, allora David Luiz veramente vale 54. Ma secondo me ne vale una cinquantina anche Cuadrado, per il tipo di giocatore che è nel panorama europeo. No, però fa ridere sui difensori centrali. Cioè se si parla di 30 milioni per Benatia e Vermaelen ne vale 19, allora bisogna rivalutare il tutto verso l'alto in maniera abbastanza clamorosa, perché 19 milioni per Vermaelen, che all'Arsenal l'ha smesso di giocare da tempo, che anche in nazionale ha fatto fatica a trovare posto, e il Barcellona lo paga 19 milioni di euro, ma allora prova a prendere Thiago Silva, prova a prendere Marchinho, prova a prendere lo stesso Benatia piuttosto che Vermaelen. Io soldi spesi male come a Barcellona per i difensori ne ricordo raramente. Sì, anche con gli attaccanti non hanno scherzato negli anni scorsi, perché poi la convivenza con Messi è sempre stata complicata. Capolavoro lo scambio Eto'o-Ibrahimovic. Grazie Riccardo. Sì, assolutamente, grazie a voi, una buona giornata. Vorrei fare un appello alla vostra cortesia, anche a quella dei signori e soprattutto ai media, per pregarmi di concedermi il beneficio dell'inventario da ragioniere. Inventariamo le cose che faremo e le faremo insieme e giudichiamo poi quello che avremo fatto. Franco dalla provincia di Rimini, Franco. Sì, buonasera. Senta, sarò molto telegrafico. Io sono a dir poco indignato ed esterrefatto nei confronti della stampa italiana per la presa di posizione assunta nei confronti di Tavecchio, che ha indiscutibilmente sbagliato e lui si è scusato pubblicamente. Però quella stessa stampa, lei ne è pure coinvolto, perché penso che anche lei faccia parte della stampa, che sta insistendo e caldeggiando in maniera esponenziale la figura di Conte. La figura di Conte è CT della nazionale italiana, quel Conte che fino a prova contraria mi sembra che sia stato condannato. Sì, ma però Franco, che sapeva e non ha parlato. Sì. Quindi Tavecchio a livello internazionale porta discredito alla nazione Italia, invece Conte rappresenta il meglio della nostra nazione. Sì, Franco, però a parte che sottolineo che stiamo facendo cronaca e mi sembra che stiamo dicendo da un'ora che ben difficilmente Conte sarà commissario tecnico della prossima nazionale, e poi ripeto, ci sta tutto, ci stanno anche le battaglie d'opinione, ci stanno le opinioni come la sua, e ci sta anche che la stampa italiana abbia deciso 2 settimane fa che Tavecchio non era il candidato giusto per il calcio italiano. Vediamo se riusciamo a fare Arcangelo da Bologna, abbiamo però meno di un minuto. Arcangelo. Sì, buongiorno. Prego. Ascolti, volevo fare una domanda. Lei, quando con i suoi amici, no? Magari, quando sì, è seduto al bar, quante volte ha detto, venendo a giocare, un Gresco, un Birsa, sì, un Vampeta, gioco meglio io? Quante volte l'avrà detto? Milioni di volte, però io non mi sono mai candidato, non mi sono mai candidato e le garantisco che a questo microfono non mi sentirà mai parlare come parlo con i miei amici, altrimenti forse legittimamente da domani sentirebbe qualcun altro, perché la forma alle volte è sostanza. Arcangelo, non stava parlando al bar Tavecchio con gli amici, stava parlando nel suo discorso di presentazione del programma di candidatura a capo della Federcalcio. Comunque ho l'impressione che l'argomento piace, Noi andiamo avanti domani a partire dalle 14. Io ringrazio Fabio Cantadori, ciao. Volevo salutare, adesso lo faccio, Mi riprendo il microfono. No, grazie, vi saluto tutti e forza Italia! Viva! Viva l'Italia! E viva! Abbiamo vinto! Abbiamo battuto l'Inghilterra! Siamo arrivati a chi c'è? No!